E allora, eccoci per Liberamente di stasera. Senza dirne di più adesso, volevamo entrare subito nel nostro Liberamente di oggi e accogliamo con un gran piacere Sylvie Genovese. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endure, en froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout d'un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, ma tourmente j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Ainsi, amour inconstamment me mène et ne le croit avoir plus de douleur. Sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et trop haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endure, en froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Buonasera, Sylvie. Buonasera a tutti. Sylvie Genovese, grazie per essere qui con noi. Abbiamo invitato questa grande artista e chitarrista qui con noi in radio al martedì femminista e lesbico. Ci sei venuta a presentare quindi il tuo nuovo CD Corde Migranti. Corde Migranti, sì, il mio nuovo CD, ultimo lavoro. Vuoi parlarci di come sei arrivata a comporre questo tuo nuovo disco? Sì, come non volentieri. Intanto voglio salutare chi sa che sta ascoltando. Questo è una cosa non possiamo sapere, ma voglio salutare tutti e tutte e tutte. E il CD, allora, è l'ultimo lavoro, ma in realtà è un lavoro che è durato molto. Cioè, non è che tu fai una cosa hop e ti dico ah, sono gli ultimi 6 mesi, no. Sono forse, perché vedi, questo CD è come una specie di mosaico di curriculum. In realtà si chiama Corde Migranti perché penso che il chitarrista è un migrante, perché la chitarra lo porta sempre lontano, o lontano nello spazio, perché la mattina io mi incontro con Bach o con Fernando Sore o con Giuliani, che sono tutti personaggi fantasmi del passato, o anche perché la chitarra è uno strumento talmente multiple che tu passi dalla canzone che fai zumpa zumpa al pezzo molto elaborato, e sta sempre oscillando tra musica colta e musica popolare. Dunque già questo ti fa appartenere a vari mondi e ti porta a viaggiare. Il chitarrista è viaggiatore. E allora io con la chitarra in mano sempre l'ho seguita e ho viaggiato, curiosa di altri suoni, per esempio dell'America del Sud, e mi ha portato a viaggiare. Allora questo CD, per questo si chiama Corde Migranti, per questo aspetto della chitarra, che è uno strumento viaggiatore, e per un altro aspetto, perché profondamente sento che siamo tutti migranti. Cioè, io non credo che l'identità sia una sola, siamo fatti di tante cose, siamo fatti del paese dove siamo nati, del paese dove viviamo, cioè del passaporto, ma anche delle cose del cuore, e poi degli incontri, e poi di tante cose che non sappiamo nemmeno decifrare, capito? Che è tutto un patrimonio che sta bollendo, io lo sento così, dentro di noi, e bisogna, come un caos un po' a volte, e bisogna rimettere tutto sto puzzle in ordine, in modo poi di acquisire una certa coerenza. Dunque è un CD su questo, sulla rivendicazione di un'identità che sia sempre in movimento e non una sola, poi su tante lingue diverse. Credo che basta. Ecco, per esempio, come avviene, Silvi, la tua scelta della lingua in relazione alle canzoni che vai a comporre o a cantare in un'interpretazione? Sai, la lingua per me poi diventa suono quando scrivo. Allora, a volte una parola ha un suono migliore in castellano o in italiano o in francese. È proprio una questione di suono. Anche ogni tanto anche di espressioni che conviene che si, una cosa che si dice meglio in italiano o in francese, ma diciamo che io trovo molta difficoltà a scrivere in italiano perché trovo molto difficile. Allora ho provato, è difficile per me, ancora non lo so fare bene, penso, e allora sono un po' ritornata al francese. Beh, eppure devo dirti che nei pezzi che sono presenti nel CD e che hai composto anche in lingua italiana, devo dire che sono uscite fuori veramente degli splendidi risultati. Ti ringrazio molto, però le cose, penso, per esempio su un pezzo come Cos'è, sono metà italiano, metà francese, questo va bene. Su un altro pezzo come Brace, dove tutto il testo è italiano, il testo non è più mio, è di Piero Brega, e allora, perché ancora non credo che ce la faccio a scrivere un testo tutto in italiano, e poi non mi corrisponde forse, no? Perché non sono tutta italiana, anzi. Bene, e comunque, ripercorrendo un po' il tuo CD, allora, intanto, se vogliamo mandare un pezzo, ascoltiamo un pezzo strumentale che tu hai scritto, di cui sei l'autrice, che è Harem, che ci è piaciuto moltissimo. E così Harem, perché uno può sempre sognare, no? Di avere un posto così privilegiato dove arrivi e ti aspettano tutti là. E allora sono momenti di, come dire, di grande dolcezza, tutte queste cose buone, di erotismo. Sarebbe bellissimo che ognuno di noi, se possiamo, avere un harem da qualche parte, no? Che ne pensi? Magari. Allora godiamocelo un po' questo harem. Immaginiamolo con la musica. Sì. ritorniamo in studio. Scusa. Ritorniamo in studio con Sylvie Genovese e abbiamo sentito Harem dell'album Corde Migranti, che è un, come diceva lei, un patchwork di molti mondi. Eh sì, infatti Sylvie, a me voglio dirti subito alcune impressioni che ho avuto da questo CD, in particolare già da come ci hai introdotto il tuo nuovo lavoro. Ti voglio dire che è un pezzo che mi ha molto molto toccato, devo dire proprio commossa, è Aurunca, pur essendo l'ultimo pezzo del CD, invece è molto significativo, soprattutto perché finisce e chiude il disco con la frase "ho avuto una bella vita". E questa è la frase di tua nonna, che mi ha veramente colpita. La storia di un'italiana migrante, appunto, una delle tante, questi suoi bagagli fatti in 48 ore, le sue andate e ritorno, una donna che voleva liberarsi dalla violenza maschile dei fratelli e poi, sposandosi, la rincontra nuovamente, ma poi se ne libera di nuovo con un divorzio negli anni 30 e di nuovo è libertà. E poi, che non è banale affatto. Così. No, infatti rientra un po' in quello che ti dicevo prima, del fatto che questo CD è come un po' un curriculum, un mosaico. E perché parto da Lione, per esempio, che è la mia città di provenienza, dove ha emigrato mia nonna, appunto. Sì. E per quello ho messo il primo pezzo che ho cantato. Mi piace moltissimo l'idea, perché è di una poetessa di Lione. Si dice poetessa o poeta? Non mi piace sta parola poetessa, sembra abbessa, come si dice quella che dirige il convento. Le abbesse, l'abbessa. Anyway, non fa niente, non mi voglio allargare su problemi. La badessa. No, diciamo poeta. È una poeta del 1400. Che è una figura a Lione molto importante, non è che abbiamo tante poetesse femminili. Parto da questo, poi arrivo anche e fatto della mia vita in Italia, dunque dell'influenza musicale delle cose che ho trovato in Italia, in un pezzo come per esempio "Che cos'è", che ho studiato per molto tempo, mi sono fissata sulle tarantelle e allora ho cominciato a studiare, a riscrivere tutte le tarantelle, andare a sentirle, a trascrivere. Poi poi ho fatto anche di tutti i pezzi che mi hanno sempre accompagnato, no? E che non sono state delle buone semenze per quello che scrivo oggi. E tra l'altro questo grande compositore argentino, indio, Atahualpa Yupanqui, che è poeta ma chitarrista e che è sfuggito anche lui dall'Argentina nel 48, negli anni Perone, e che ha lasciato un patrimonio, ma è una cosa straordinaria, Atahualpa Yupanqui. Se avete l'occasione di andare su YouTube a vedere, è bellissimo come suona la chitarra, come racconta, come presenta le sue cose, e i suoi testi sono straordinari, insomma. Allora vogliamo ascoltarlo il pezzo di questo autore? Los Hermanos, che è un grande pezzo, perché tengo tanti, tanti fratelli per il mondo, ci perdiamo, ci ritroviamo, e anche i nostri morti ce li portiamo dentro e rimangono con noi. E certo che alla fine la cosa più importante è la libertà. L'ho detto molto veloce, però. Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, adelante con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Llorarlo con un resto para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza para buscarlo con tesón, con voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Los hermanos, Silvia Genovese con noi nello studio e Alessia che le fa le domande. Eh sì. Una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Esatto. Tú ti sei presa questa libertà meravigliosa di cantare questo pezzo. Di Atahualpa Yupanqui. Sì, e anche interpretato dalla grande Mercedes Sosa, ricordiamolo. Sì, sì, sì, sì. Una voce molto importante per trasmettere la musica. Senza di lei molta musica sudamericana non sarebbe arrivata. Victor Jara, per esempio, Yupanqui, Guarani, insomma tanti autori. Violeta Parra, per parlare, grazie a lei abbiamo conosciuto Violeta Parra. E a me interessa sapere un po' di più sul tuo percorso personale, o comunque quando hai iniziato a comporre e come ci sei arrivata, anche perché abbiamo ancora molti pezzi bellissimi da ascoltare di cui sei tu l'autrice. Sei curiosa allora? Sì, veramente. Sì. Guarda, io non te lo so, non ho una risposta precisa da darti, a dire un giorno mi sono alzata, no. E tu stai in un bagno di musica sempre, stai studiando, cioè quando sei al conservatorio studi molto repertorio, fai armonia, fai un sacco di cose, no? Impari anche a scrivere la musica, insomma, quando fai studi completi. Dunque è venuto naturalmente, perché sei pieno di musica, e questo è per il lato del suono. Poi c'è un'altra considerazione da fare, che ci sono anche delle cose che vanno dette. Tu senti a un certo momento che vuoi raccontare certe cose, che le devi dire, non le puoi lasciare dentro senza dirle. E la forma della canzone è una forma che mi piace moltissimo, perché è una forma allo stesso momento molto rigida, perché puoi fare la canzone e il ritornello, strofa ritornello, ma non solo questo, poi fa quello che ti pare con una canzone. La forma la puoi dare te, è strato ordinario, è elastica. Dunque era una buona cosa per me, perché avevo delle esigenze di raccontare delle cose. Musicalmente non mi voglio rinchiudere in schemi così, dunque la canzone era ottima. E poi sì, vogliamo dire, io la chitarra, appena ho avuto una chitarra a 14 anni, credo. Infatti, io volevo iniziare così, ma come sei arrivata alla musica allora? Sono arrivata cantando in un coro. Poi la chitarra è quello più adattato quando canti e che ti accompagni. Io sono arrivata così, sulla chitarra somara, insomma. E poi un po'. Ma mi piace moltissimo la chitarra somara, perché tante carriere sono nate così. Per dirne uno, per esempio, Georges Brassens ha cominciato così, no? E così via. Quello che passa la sua vita in vacanze sulla plage de Sète, no? Sì. La sua morte in vacanza. Anyway. Georges Brassens, scusate, voi siete francesi tutti e due, ma. Un autore molto famoso e molto bravo, sì. Un cantautore con dei testi anche impegnati. Ma direi un poeta, un poeta, un po' di tutto. Infatti, lui all'origine voleva fare il poeta, poi ha pensato che le sue poesie non erano abbastanza forti, ha messo la musica. È diventato cantante, però il paradosso è che adesso in tutti i licei della Francia si studia Brassens come poesia del 1900, capito? Dunque lo suo scopo l'ha raggiunto dopo. Anyway, ti dicevo, sì, la prima volta che ho preso una chitarra a 14 anni, non sapendo niente, ho cominciato a scrivere subito una musica per Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. E dunque questa voglia di scrivere, di esplorare è stata sempre, credo. Bene, allora ci vogliamo ascoltare un altro pezzo che è molto pieno di parole, anche un po' in italiano. Sì, sì, è interessante, a me mi piace tanto. Già l'hai spiegato come l'influenza e le tue ricerche sulle tarantelle, ma anche io che ho sentito è che si inizia in italiano e poi è come se a un certo momento il francese prende il passo. Sì. E quale francese? Perché Barbara. E Barbara. Poi. Sì, brava, Le Mal de Vivre. Sei questa tristezza pianta velenosa che sento piano piano piano crescere dentro di me, e piano piano piano piano mi paralizza, mi fossilizza, mi spengo, mi perdo e dal mondo mi assento, mi spengo, mi perdo e dal mondo mi assento. Cos'è questo silenzio freddo penetrante che sento piano piano piano crescere dentro di me, piano piano piano piano mi paralizza, mi fossilizza, mi spengo, mi perdo e dal mondo mi assento, mi spengo, mi perdo e dal mondo mi assento. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin, de vivre en vivre. Le mal est de vivre, mal est oscur. Que destino, cruellement sur mal obscur. Mythique morceau, rimorso. Et tout vous lasse, tout s'efface. Ça vous glace, et l'on glisse, l'on s'enlisse, la pisse. Ce sont des îles anéantées. Bisogno d'amore di calore, bisogno d'amore, bisogno d'amore di colore, bisogno d'amore. Thank you. con il silenzio, la senza il dolore, liberarsi, liberarsi, rompere con il silenzio il dolore, liberarsi, liberarsi. Se piano tu le mister la sento piano piano piano crescere dentro di me piano piano piano piano. Con la souffrance, la danse, la danse, la délivrance piano piano piano piano. Questo brano era Cos'è? Che cos'è? Dire, Silvi? Che dire? Cos'è questa bellissima tarantella? Io cos'è, volevo... cos'è, cos'è questo mal de vivre? Perché la tarantella dopo è questo la storia sua della pizzica. È una depressione che viene curata dal rito. La tarantella era una musica dal potere magico, che faceva parte di un rito terapeutico, pardon. E se tu studi un po', se leggi un po' Ernesto De Martino, capisci che alla fine era una depressione, che è un avvelenamento di tutte le cose della vita quotidiana, e anche una specie di appello all'aide, di richiesta di aiuto, di farsi vedere da tutti, aiutatemi a uscire da questo, di questa mal de vivre, capito? Io lo interpreto così. E mi sembra che tu hai trovato proprio la giusta medicina in tutto questo. Sì, sì, sì, beh, sì, sì. E quindi, non so, ci vuoi fare un altro pezzo live? Sì, volentieri ancora. Quando dicevo della necessità di raccontare, questo pezzo l'ho scritto poco fa, poco tempo fa, questo è proprio una novità. E quando sono andata all'Aquila, credo che era il 2012, dunque 3 anni dopo il terremoto, e sono andata a suonare all'Aquila e sono rimasta sconvolta veramente di quello che ho visto, di come ho trovato la città, del vuoto che ho trovato. Poi mi hanno fatto vedere queste case che aveva fatto Berlusconi, no? E una cosa, ma di prefabbricato, una cosa è completamente isolata, in uno lontano dalla città, nella campagna non c'era niente, né bar, né chiesa, né niente. Ste cose appoggiate là, e una sola strada che si chiamava Via Fabrizio De André, povero, che strano. E gli amici mi hanno portato così in vari posti, siamo pure entrati nella città dove non si poteva entrare perché era vuota, e c'erano i militari che ti impedivano di entrare. E tante impalcature, e questo è stato un affare per i venditore di impalcature. Dunque dovevo non lo potevo tenere così. Era una città così bella, poi l'Aquila, me la ricordo, era straordinaria. si racconta che era la città delle 99 fontane, 99. Piazze, 99 fontane, 99 chiese, 99 piazze, c'est la terre qui a tremblé et qui a tout emporté, sparite tutte le piazze, tutte le fontane. Qualcuno l'aveva detto, l'evento era previsto, ma lo Stato ha deciso, non è vero, sta zitto, e ancora la terra trembla, e ancora gli sono pigli, e ancora la mora regna su tutta la città. Tutto sto speso, pas un bruit, nessuno. E dans ce désert, les militaires, ça ressemble à la guerre. Comment oublier la vecchia signora, parmi les pierres jetées, avec ses souvenirs, vuole ricordare, e mi racconta, pour ne pas mourir. Toutes ces années sont passées, cependant rien n'a bougé, ni la terre ni les hommes, l'aiguille a abandonné, le silence s'est déposé sur la ville dévastée, une autre calamité sous les ferrites. Cité dortoir, isolée, désolée, que veut-on nous faire croire? Non, ce n'est pas l'espoir, mais un outrage aux gens de la Cuila. Comment oublier les amis rencontrés, cette ténacité que rien ne fait trembler, et je garde au cœur toute l'ardeur des gens de la Cuila. Qualcuno l'aveva detto, l'evento era previsto, ma lo Stato ha deciso, non è vero, sta zitto, tutte le anni sono passate, cependant rien n'a bougé, ni la terre ni les hommes, l'aquila abbandonné, le silence s'est déposé, sur la ville dévastée, une autre calamité, sulle ferite. 99 piazze, 99 fontane, 99 chiese, 99. Brava. Quasi quasi mi dicevo che questi microfoni, forse di tradurre un po' del testo sarebbe bello. Non lo so se lo vuoi fare un piccolo pezzo. Racconto, è un testo, lo trovo assai semplice, però è quello che ho visto, cioè dice soltanto che questa città, che era un bijou dell'architettura, che ha vissuto tanti terremoti, perché anche questo è una tradizione della città. Si sa che all'Aquila è costruita su una zona sismica, a grandi scosse telluriche. Dunque. Che nel Medioevo, che nel Rinascimento, che nell'Ottocento, ok, non hanno potuto fare niente, però adesso come si può, quando una persona aveva previsto il terremoto, si era sbagliato di 2 giorni, e l'hanno fatto tacere, capito? E lì hanno fatto pure un processo dopo. Dunque non è possibile che non lo possiamo prevedere, lo possiamo trovare i mezzi per, lo sappiamo che è una zona a rischio, e così, ecco. E facciamo, è qua la cosa che mi ha toccato è come, no, dici che c'è un gioiello che comunque è stato, cioè, adesso abbandonato, e adesso una terra di guerra. Sì, sì, no, e poi soprattutto la cosa peggiore è che il silenzio dopo. E cioè la gente, gli amici me lo dicevano, che la cosa peggiore è che io sono venuta 3-4 anni dopo, era rimasto tal quale, cioè tutto in rovina, arrivavi in questa città fantasma di notte, con vedevi gli armadi aperti, c'erano ancora la pasta, il riso che stava là, le case, è una cosa, era la guerra, sembrava la guerra. Vuota di abitanti, solo i militari e questo grande silenzio e niente, niente fatto, il silenzio dappertutto, ma il silenzio anche sull'evento in sé, che non hanno più detto niente, solo queste case che hanno costruito e basta. Allora adesso non so a che punto è, però veramente quando vai a vedere le chiese bellissime, non mi ricordo più il nome, ma le chiese bellissime, così in quello stato, ma ti distrugge. Quindi torniamo a noi, comunque totalmente in anteprima musicale, sì, qui sì. A Radio Onda Rossa abbiamo avuto l'onore di aver suonato questo pezzo live da Silvi Genovese, il suo nuovo pezzo sull'Aquila, ma quindi stai già preparando un altro disco, Silvi? Sì, sì. Ah, ecco. Sto pensando. Questo è, che numero ha quello? Il primo? No, non è il primo disco che hai fatto. È il secondo. Secondo. Il primo si chiamava Alterazioni. Ah sì, vero, l'ho letto, scusa. Alterazioni. E quindi ne stai già preparando un altro, che sarà pronto? Ah, ma aspetta, andiamoci piano, perché cioè, no, non è questo, in realtà non è questo, è che il problema è che tu puoi sempre fare, però sei un deserto intorno a te. Il problema è questo, è che molte volte mi sento in un deserto a livello culturale qua a Roma. Già questo ancora non è prodotto, non ha trovato nessuno. Io continuo a fare perché voglio fare, perché così è, cioè, come non posso fermarmi di suonare, come no. Però mi sento un pesce fuori dall'acqua, capito? Perché come quello che faccio qui a Roma è, come dire, è proprio fuori. Canto in francese, in spagnolo, in italiano, sono una musicista classica, ma non è completamente classico, un po' pirata, capito? In questo mondo dove tutto è definito e tutto è completamente schedatizzato, non so se ci sia così, veramente dove mi metto io? Dove è il mio posto? Allora il problema è quello, è che non c'è niente, c'è poca roba. E poi aggiungi, già a livello delle idee, a livello culturale sono poche cose, poi in più non ci sono più i soldi, allora qua siamo proprio, quello è un grande proprio tema. Messi molto male. Meno, ma non più di tanto, perché in realtà poi troveremo. Bisogna essere, però speriamo fiduciosi. Che con questa grande occasione che ci hai regalato stasera di ascoltarti qui ringrazio, dalla radio, veramente. Tutte le compagne e i compagni che potranno ascoltarti e sentirti, magari ti proporranno proprio domani, ti chiameranno. Sarebbe chissà, bellissimo. Magari proprio per l'8 marzo invitare una donna così speciale per celebrare la giornata dell'8 marzo, insomma, abbiamo okay. Una chitarrista. Da solito le artiste donne dicono sì, a parte l'8 marzo non ci chiamano mai. No, ma rimaniamo fiduciosi, è l'unico modo per andare avanti comunque. Io invece volevo tornare indietro, dunque stai in Francia, studi la musica, ti viene a raccontare le storie, la cosa che vuol dire, sì. E poi come continui? Questa, nel senso, ti vieni in Italia, perché mi manca un passaggio visto che stai qua. Sono da 30 anni a Roma. Dunque, come sei mossa? Perché sono uscita dalla Francia per andare in Sud America, poi sono andata a Ginevra e poi da Ginevra avevo il progetto già da molti anni prima, anche prima del Sud America, di venire in Italia, perché ero curiosa di queste origini italiane che avevo. com'è, perché sai, la mia la famiglia italiana era povera, erano emigranti. Dunque mio padre voleva uscire da questa povertà e diventare francese. Quello fa che non abbiamo frequentato molto la famiglia italiana. Dunque è come se tu c'hai un pezzo, a parte la nonna, no? E basta. Ma è come se tu c'hai un pezzo della tua identità che, tra parentesi, nella quale non metti né colore, né panorama, né alberi, né, perché non sai come è fatto, no? Allora ero curiosa, volevo venire e vedere di che cosa era fatta quest'altra parte, e sono venuta e sono rimasta. Il pretesto, se vuoi, per avere un posto dove arrivare, potevo arrivare a Firenze o a Bologna, no? I miei nonni venivano dai Monti Aurunci, dunque Roma era comoda perché non era lontana, e poi c'era la scuola di musica popolare, di musica di Testaccio, che in questi anni, adesso non è più così, ma negli anni 80 era una scuola molto vivace, dinamica, era il faro, insomma era la prima scuola privata di musica aperta a tutti. Dunque è stato quasi una scuola pilota nella didattica musicale. È la scuola dove tutt'oggi insegni? Ancora insegno, sono arrivata, ho insegnato e tuttora insegno, e era un'esperienza bellissima. Io ho potuto sviluppare molte cose alla scuola di Testaccio, didatticamente parlando, no? Le lezioni collettive, perché adesso ho un ensemble di chitarre dove metto tutti insieme, sia il virtuoso che il principiante, che si chiama chitar, è stato, se vuoi, la cosa che mi ha attratto. Poi c'era anche Giovanna Marini che stava là a lavorare, dunque, e anche questo mi interessava musicalmente. Il lavoro di Giovanna Marini è unico a livello della composizione. Non conosco veramente, perché usando la tradizione, ma allo stesso momento molto anche lei chitarrista classica, ma allo stesso momento usando anche il linguaggio contemporaneo, e poi era molto famosa in Francia, dunque tutto questo ti dava l'idea di venire a Roma. Così ho risposto, non lo so. Sì, hai risposto. Ah, grazie. Bene. Continuiamo a sentire. Sì. Come si chiama quel? Visto che ci hai raccontato tutte queste belle storie passate, quindi non so, proporrei di ascoltare dal tuo disco La Memoria. Sì, perché hai ragione, un'ottima scelta, perché voglio, grazie, dire, c'è anche un altro criterio che è importante per me. È il dovere del musicista, il dovere di memoria del musicista. Il musicista può scrivere, può fare, è tutto possibile, però deve anche trasmettere e deve anche fare conoscere e deve anche ricordare. E questa canzone, La Memoria, è tutta la storia del Sud America degli anni 50 in poi, tutte le dittature, e qua c'è tutta la storia tremenda che è successa. Parla di gente che abbiamo scordato, i preti per esempio che sono morti in Sud America, poi gli scrittori, i giornalisti come Rodolfo Walsh, Chico Mendes, che era il leader del sindacato dei Seringueiros, e quelli che nella foresta amazzonica sì, raccogliono il latex, no? Ammazzato dai proprietari terrieri. Delle cose incredibili, los desaparecidos, tutto questo 50 anni di storia dell'Argentina, del Cile, che dobbiamo ricordare. E questo è un grande compositore argentino, un altro argentino, Leon Rieco. Grazie di pensare a questo. Grazie a te, Silvia. Okay. Los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se perdieron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre, la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarán y no la dejan andar. Libre como el viento, todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo ponió a todo, que los padres palotinos y Angelini dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser. Libre como el viento, la bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las vías, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento. La memoria era la brano che abbiamo ascoltato dall'album di... Come? di Leon Rieco, non dimentichiamo sì. gli autori, anche se l'anonimo può guadagnare in immortalità, ma meglio sapere di chi vengono le cose. Bellissima Silvi, la tua voce è proprio molto profonda e la chitarra è potente, mi piace moltissimo. E c'è un'altra canzone che ci ha colpito molto, è una canzone, un pezzo di cui tu sei l'autrice insieme a Piero Braga? Brega. Brega, Piero Brega. E se la vogliamo ascoltare, soprattutto ti volevo chiedere, non so, mi sembra l'amore tra due donne. Ma guarda, ognuno la sente come vuole. Io mi stavo chiedendo, mi stavo ponendo delle domande sull'amore, no? Perché parliamo sempre di amore, amore, amore. E non mi piace molto l'amore così. Allora mi chiedevo, sarebbe un po' da argomentare un po' di più, ma per farla breve, mi facevo un sacco di domande. E Piero Brega è un grande cantautore romano, un grande poeta pure, e parlavamo insieme e abbiamo detto vabbè, scriviamo un testo, e lui ha scritto, è stato più veloce di me perché è più bravo, sai, su questo non c'è dubbio, e mi ha regalato questo testo. Allora io ho pensato, ecco, questo fa per me, lo canto, scritto da un uomo, però io lo canto da donna, perché non dirò io al maschile, lo dico io. Dopo ognuno lo legge come vuole, ma il tema è l'amore. L'amore non ha colore, non ha non deve essere deciso di come deve stare, deve stare come sta. Si sono due donne, sono due donne, si sono, hai capito? Non mi interessa la questione. Siamo assolutamente d'accordo. Siamo assolutamente d'accordo. Siamo d'accordo. Parliamo d'amore, ascoltiamo l'amore. Con piacere. Brace. Ad una donna ho detto io ti amo, e mentre lo dicevo mi guardavo, sentivo la mia voce dire cose che mi facevano ridere di me. Mezze bugie ed ipotesie azzardate, stupita mi vedevo raccontar ferme intenzioni molto improvvisate dalle mie stesse parole. Frastornata, credo che t'amo, e poi mi son fermata. Chi è costei che diavolo mi piglia? È vero o non è vero? Confusione, nebbia lunare, torpore, pace, in quale ginepraio? Torpore, pace, in quale ginepraio? Ma più importante dell'imbroglio stesso fu il sorriso che lei mi rimandò, che sciolse la remora, il complesso, se continuare tutto il cui proprio. Lasciai che l'amore mi guardasse, sarebbe meglio di non farlo mai. Gioia d'amore al mondo non ha ugual, da grande forse la rimpiangerai. Quando ti coglie impreparata, in mentre vedi il mondo onesto e bello, è il vivere un miracolo di Dio. Non fu così che andarono le cose, né io né lei né tutto quanto intorno. Presa tra erte e scoscendimenti, la cacciata dall'Eden proseguita. Ah. nel mezzo del cammin, nel mezzo del cammin. Questo pezzo, pezzo era Brace, sull'amore. Un'altra, un'ultima domanda, così prima di separarci. Io la mia era di sapere se avevi avuto la voglia, se l'avevi fatto, di suonare in un gruppo. Sì, come no. Ho fatto molte cose con musicisti italiani. E all'inizio avevamo un gruppo che si chiamava Pericoloso Sporgersi, poi delle collaborazioni per esempio con Evelina Mignaggi sulla musica sefardita, bellissima, o con Grazia De Marchi, insomma varie collaborazioni, però ti prendono tanto tempo perché devi fare trascrivere, fargli arrangiamento, trascrivere eccetera. Dunque adesso ho deciso di occuparmi delle mie cose, era ora. Bene, infatti la mia ultima domanda, anche se prima in quello che ci hai raccontato ce l'hai già un po' anticipato, la mia ultima domanda è forse la più importante, soprattutto considerato che anche io ad esempio suono in un gruppo musicale, peraltro di sole donne. So bene che nella vita comunque di un artista una parte importante del lavoro è la promozione di sé e soprattutto la ricerca di spazi, di palcoscenici dove esibirsi, e ecco, insomma, volevo chiederti come te la cavi tu, Silvi, giocando principalmente da cantante e chitarrista solista e soprattutto da donna artista. Beh, guarda, credo che donna artista, uomo artista, la lotta è la stessa, penso, mi sembra, e, bah, non lo so, ma mi sembra che i problemi sono gli stessi, e tu lo sai, come hai detto, con il tuo bel gruppo e femmine, femmine, bellissimo, e me la cavo abbastanza male, devo dire, perché è un altro mestiere quello di fare la promozione, poi fare la promozione di se stesso è ancora più difficile. Allora devi sopravvivere, per sopravvivere insegno, che è una parte del mio lavoro che è fondamentale, che mi piace moltissimo, la didattica mi piace moltissimo, e insegno proprio da 7 anni a 77 anni, come il fumetto francese Tintin 1001, e mi sta bene, e anche questo ti ruba tempo e energia, perché devi scrivere, devi anche qua devi fare tutto un lavoro di scrittura. Una volta che hai fatto tutto ciò, che hai studiato, perché bisogna studiare, non solo perché ti devi tenere in forma, perché studiare è un momento privilegiato, io mi ritengo povera materialmente, ma molto ricca, che ogni mattina posso alzarmi e suonare Bach, per esempio, capisci? È una forma di meditazione. Il mio problema ogni mattina si concentra sul movimento di un dito di un millimetro. Quello è il mio vero problema ogni mattina. Come fare a muovere le dita il meglio possibile? Il gesto così piccolo. E come è una forma di meditazione, e mi ritengo molto fortunata. Ma una volta che hai fatto tutto questo, che devi poi scrivere e tutto ciò, perché per scrivere ci vuole molto tempo, dove non fai niente in realtà, e poi la promozione, mamma mia, ma come si fa? Aiuto. Capito? E seguire tutte le cose, però bisogna farlo, e essere, direi che non lasciare perdere, essere proprio, anche quando ti dicono di no, insistere. Io ho preso una pagina di appunti su tutti i tuoi consigli, spero che mi saranno utili. Non darla mai vinta, tu insisti, continua. Ok, grazie Silvia. Allora vogliamo sentirti ancora suonare dal vivo? Sì, mi fa piacere. E quindi cosa ci vuoi presentare? Beh, io prima di tutto vi voglio ringraziare, mi avete accolto molto bene, mi avete dato questa opportunità e ti ringrazio te, Alessia, Silvi. Grazie. Vi auguro grazie. Lunga vita. Grazie Silvi. Anche a te, è bella. E vorrei finire cantando una canzone italiana che era in un film di Pietro Germi, è possibile? Sì, che cantava Maria Angela Melato, che è una canzone di Nino Rota, che mi ha fatto scoprire un'allieva, beata lei che me l'ha fatto scoprire. È la canzone arrabbiata. Ci vuole? Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità. Cammino e canto la rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità. Cammino e canto la rabbia che mi fa. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Grazie. E con questa favolosa, così si dice, arrabbiata, controlliamo con piacere il martedì autogestito da femministe e lesbiche su Radio Onda Rossa. E vi diciamo alla settimana prossima. E io ti invito, Silvi, a venire quando vuoi. I microfoni sono aperti per te. E come avevi suggerito Rita Mizzucco, e che non ho trovato, metto Bella Donna 9CH. Va benissimo. comme des mouettes. Nous nous aimons comme des pieds. Comment pouvez-vous avancer? On marche tous sur la tête. On résonne comme des brouettes. Nous nous aimons comme des pieds. Comment pouvez-vous avancer? Avec le pétrole, tout s'envole avec le schiste. C'est explosif, on va toujours, toujours plus vite. Pour s'écraser contre une vitre, on va passer le mur du son. L'homme n'est que poussière, d'où l'utilité du plumeau. On ne fait pas machine arrière quand l'avenir est aussi beau. Ce chemin qui sent la noisette. Fais pas machine arrière quand l'avenir est aussi beau. Ce chemin qui sent la noisette. Les radiations restent discrètes, un petit trou par-ci par-là nous laisse des champs de gravats. Puis y a la bourse et les actions pour nous presser comme des citrons. Et nous tondre comme des moutons. Et nous tondre comme des moutons. Nous nous aimons comme des fous. Au bal masqué des loups-garous. Et nous tondre comme des moutons. Et nous tondre comme des moutons. Nous nous aimons comme des fous. Au bal masqué des loups-garous.